Prendilo! favela in queste mura e qual ti parve un angelo d'amor bella qual era che m'anima sempre troppo indegna di rio destino io te che disse a parla ho sempre a ben sicuro affidarmi al tuo cor parla e giuro questa immago, questo voglio la scuola da te di mio. Di sua mano gli ebbi e pria del suo pianto lì pagnò. Liberarla, vuoi liberarla? Pecina, o vedo Thank you. Yeah! Oh!

da stesso. Non per me, dove un dono. No, tu dici, e allora io stesso. Se la sorda e preghi tuoi, io vendetta ne farò. Che farei, che farmore, per me sforte la vera

Guardo lascia contenta al carcere questa affannosa vita, andrai come resai al cielo, ma Dio consola. Elisabetta vuol che sia paga ogni tua brava. Love. Giusto e bene, vicino.